Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. E siamo di nuovo insieme a parlare di digitale ancora una volta dopo che questa grandiosa manifestazione, la Milano Digital Week, si è svolta, a farci raccontare dalla protagonista, dall'organizzatrice, dalla Deus Ex Machina di questa iniziativa, Roberta Cocco, assessore all'innovazione e alla trasformazione digitale del Comune di Milano, alla quale diamo il benvenuto a Radio Next. Buongiorno Roberta. Grazie, buongiorno Pepe. Senti Roberta, allora questa Milano Digital Week, che è stata un successo straordinario e importante l'anno scorso per tutti gli eventi che abbiamo avuto di persona, si è dovuta riconvertire ad una Milano Digital Week digitale. E che cosa è successo? Come è andata? Qual è stata la risposta dei cittadini e dei partecipanti? Sì, la grande emergenza sanitaria che ci ha colto tutti ha fatto sì che noi dovessimo riprogettare completamente la nostra Milano Digital Week. Doveva svolgersi a marzo con oltre 600 eventi sulla città, l'abbiamo trasformata in un'edizione completamente online. La risposta da parte dei partner, degli operatori, degli sponsor è stata straordinaria, perché in 6 giorni sono stati più di 500 gli appuntamenti che erano disponibili sulla rete, e anche la risposta del pubblico, perché abbiamo avuto oltre 120.000 partecipanti che ovviamente, essendo digitale, hanno ben superato, diciamo, i confini di Milano. Quindi certo, se un aspetto positivo si è visto immediatamente è che questa Digital Week ha potuto raggiungere anche le persone che non erano necessariamente a Milano, ma che con il lockdown avevano anche un pochino di tempo in più da dedicare agli approfondimenti tecnologici. Peraltro, primo anno che Milano apre le porte anche ad un'altra città. Bergamo è stata la prima città che ha ospitato il fuori Milano Digital Week, chiamiamolo così, ma la cosa importante in questo caso è che Milano ha travalicato i suoi confini per diventare a tutti gli effetti un evento nazionale. Quali sono, come dire, le lessons learned? Che cosa abbiamo imparato da questa versione digitale diversa, con una partecipazione anche da un punto di vista dell'esperienza differente della Milano Digital Week? Allora, hai detto bene, con Bergamo abbiamo fatto il primo veramente Digital Bridge italiano, e questo ci ha dato anche lo stimolo per aggiungere al nostro palinsesto i progetti che molte città italiane avevano sviluppato ovviamente digitalmente per affrontare l'emergenza. Sono stati più di 60 i progetti pervenuti dalle città italiane e sono stati raccolti in un grande evento che adesso è ovviamente disponibile on demand, proprio per far vedere come la Digital Week di quest'anno superasse di molto i confini della città di Milano, anche per un confronto e anche per un connubio, visto che il digitale riesce davvero ad unire. Abbiamo parlato di lavoro, di nuove competenze trasversali, di formazione, di educazione, moltissimo di sostenibilità, ovviamente di intelligenza artificiale, di Internet of Things, di salute, di privacy. Diciamo che in questa edizione digitale abbiamo toccato tutti gli argomenti dell'innovazione che ci sono stati così cari in questi mesi e che ci sono serviti per affrontare questa emergenza. Le aziende come hanno risposto di fronte a questo cambiamento che non le vedeva più protagoniste fisiche del contatto con il potenziale cliente? Non ce l'aspettavamo, sono state straordinarie, cioè praticamente tutti i partner che avevano aderito alla Milano Digital Week, chiamiamola classica, ci hanno confermato il sostegno e il supporto. Quindi abbiamo avuto oltre 50 aziende che ci hanno sostenuto in questo grande progetto e che ci hanno permesso di fare anche iniziative di altissimo livello, come alcune lezioni magistrali, 8 hackathon organizzati su quelli che sono 8 degli obiettivi sostenibili delle Nazioni Unite, oltre 150 conferenze, seminari, tavoli di discussione, e quindi abbiamo raggiunto oltre 300 ore di contenuti erogati dalla rete, ovviamente disponibili nella settimana della Digital Week, ma ora anche scaricabili direttamente dalla piattaforma. Quindi per chi vuole giusto un messaggio di servizio, basta andare sul sito della Milano Digital Week e andare a cercare i contenuti più interessanti per poterseli rivedere in una situazione comoda anche dopo che l'evento è finito. Questo secondo me è un plus enorme. Che cosa ci portiamo per il prossimo anno, Roberta? Marzo sembra così lontano, ma in realtà poi chiudiamo gli occhi, li riapriamo, siamo già all'anno prossimo. La prossima Milano Digital Week. Assolutamente, noi stiamo già pensandoci ovviamente, anche perché c'è un grande dilemma, no? Sarà fisica o sarà digitale? Certo. Beh, io mi auguro che sia tutte e due. Questa esperienza nella sua complessità, ma con uno straordinario risultato come quello che ci è stato dato, ci ha insegnato moltissimo e quindi ci ha fatto comprendere che ormai anche un'edizione fisica non potrà mai più prescindere dal avere un parallelo digitale. Quindi nella nostra idea c'è proprio di immaginare la Digital Week del 21 con una parte fisica per poter riavere quella sensazione di vicinanza che noi davvero ci auguriamo possa essere, ma anche digitale proprio per i vantaggi che ci ha dato di superare i limiti geografici temporali che necessariamente un evento fisico comporta. Roberta, mi sembra che la Milano Digital Week ci stia un po' insegnando, ci stia un po' dando l'input alla creazione forse di una piattaforma nazionale che vada al di là di Milano e che diventi, come dire, l'Italian Digital Week, forse. Noi ce lo auguriamo, nel senso che abbiamo sempre collaborato con il Ministero dell'Innovazione sin appunto dal primo anno della Digital Week e quindi per noi è molto importante continuare questa collaborazione. La piattaforma di Milano Digital Week è a disposizione di tutti e noi siamo e saremo ben felici di poter offrire il nostro contributo affinché davvero il digitale diventi un asset nazionale importante per la crescita e per la ripresa. Grazie mille allora all'assessore Roberta Cocco, assessore del Comune di Milano all'innovazione e alla trasformazione digitale, per averci dato una panoramica di come è andata la Milano Digital Week. Ma subito abbiamo Sergio Amati con noi, che è venuto a trovarci per raccontarci l'altra parte della medaglia, la parte dell'organizzazione, la parte del contenuto, la parte delle aziende. Sergio Amati, direttore generale di IAB, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Sergio. Buongiorno Pepe. Allora, abbiamo sentito dalle parole di Roberta Cocco della Milano Digital Week che è stata un successo. Dal punto di vista aziendale, Sergio, com'è andata? Che cosa ci hanno detto le aziende? Che cosa ti sei portato a casa? Quali sono i tuoi take out di questa Milano Digital Week digitale? Beh, Pepe, è stato un lavoro incredibile di cui devo ringraziare davvero il team. Perché come ci siamo poi già raccontati, perché insomma ne abbiamo parlato un po' di volte insieme, era proprio inventarsi un nuovo modo di lavorare. Le aziende in questo senso hanno risposto in modo, devo dire, straordinario. Devo ringraziare anche loro perché hanno fatto un atto di fede, si sono buttate in questa iniziativa con grande entusiasmo. Devo dire che i risultati hanno pagato, perché davvero noi abbiamo avuto, giusto per darti qualche numero, sì, oltre a quelli che ha detto Roberta, dei seminari dedicati al lavoro, dove c'erano, sì, aziende come Accenture, come Illimity, come ABB, mm-hmm, e abbiamo avuto oltre 4.000 si sono iscritte ai seminari della Fabbrica del Lavoro, mm-hmm, quindi quei workshop organizzati da aziende come ABB, come Accenture, come Illimity, mm-hmm, anche noi abbiamo fatto delle cose proprio per parlare non soltanto del lavoro del presente, ma di come si trasforma il lavoro e il lavoro del futuro. Ma tu ti aspettavi questo livello di partecipazione? Ma devo dire di no, cioè sono sincero in questo, proprio perché era anche difficile prevederlo, sì, però devo dire che abbiamo visto veramente una crescita fortissima, ma soprattutto poi una partecipazione, perché sai, in molti casi molti si iscrivono e non partecipano, certo, invece in questo caso avete la ratio tra quelli che si sono iscritti e quelli che hanno partecipato è stata veramente importante, nel senso che tantissimi hanno partecipato poi a questi workshop, a questi seminari. Abbiamo fatto un hackathon, anche questo un esperimento importante perché è interamente online, mm-hmm, un ambiente dedicato. Abbiamo avuto 800 iscritti a 8 hackathon dedicati agli obiettivi sostenibili delle Nazioni Unite. Certo. È venuta la responsabile mondiale di questa United Nations Action Program a premiare i vincitori e ha detto lei, ha detto che una piattaforma così bella, così particolare, così che ricreasse proprio l'ambiente reale di un hackathon, lei non l'aveva mai vista. Quindi questi 8 hackathon erano collegate 8 aziende, qui c'era sempre Accenture, c'era BlackRock, c'era Open Fiber, nomi importanti, insomma. Tutti nomi importanti, no? C'erano tantissime SNAM, c'erano tantissime aziende importanti, ma proprio è stato bello perché abbiamo ricreato l'atmosfera proprio dell'hackathon fisico, che è bello perché insomma le persone stanno insieme, lavorano, i ragazzi, eccetera, eccetera, all'interno di un ambiente digitale. Però anche qui grande risposta, e devo dire le aziende hanno espresso davvero una grande soddisfazione per questo nuovo modo di fare. Dico un'ultima cosa, sì. Parlando di numeri, abbiamo fatto un'altra sperimentazione importante, no? Un concerto, l'ultima sera, abbiamo portato una troupe dentro la sala delle locomotive del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, e un artista che si chiama Venerus ha fatto un concerto in streaming live a pagamento. Anche questo è un esperimento, no? Cioè abbiamo chiesto a delle persone di pagare non per andare a vedere un concerto in un posto, ma per vederselo in streaming. Che numeri ha raccolto? E mille persone hanno pagato per vedere questo concerto. Quindi, insomma, però, Sergio, sta cambiando l'experience però di questi eventi. Quindi ci stiamo dicendo che in realtà gli eventi non sono morti, ma stanno trovando una nuova forma. Esatto, però ecco, sono tutte sorprese. Bello perché noi abbiamo provato ad andare a sperimentare cose nuove e devo dire che la risposta è stata molto positiva, quindi anche io che sono abituato a fare questo tipo di cose sul digitale, sì, eccetera eccetera, sono contento perché non si finisce mai di stupirsi per quello che può venire. Cioè mille persone che pagano per vedere un concerto in streaming su un'app non te è l'aspetti. Una cosa così, no. Non se l'aspetta, ecco. Senti, cosa sarà allora la Milano Digital Week del 2021? L'abbiamo chiesto a Roberta, però vorrei avere anche il tuo parere. Beh, Roberta lo sa meglio di me, però come dire, io vorrei che assolutamente si ritornasse all'esperienza del luogo di Milano, della gente che si incontra. Sì. Però sono sicuro che questa esperienza, sono sicuro, è evidente per tutti, questa esperienza ha lasciato il segno e quindi vedremo un qualche cosa di diverso dalla Milano Digital Week dell'anno scorso, diverso da quella che è appena finita, una combinazione delle due cose, però con tutti i vantaggi che il digitale ha acquisito e quindi vedremo veramente un'esperienza molto piena e multicanale, ma molto naturale. Questo è, credo che la gente ormai sia abituata a vedere queste cose e a fruire anche di esperienze, devo dire, appaganti anche su contesti digitali. Miglioreremo ulteriormente quello che abbiamo fatto quest'anno. Beh, ci sta, insomma, che essendo un esperimento, come dire, qualcosa deve essere ancora tarato, però avete, immagino, imparato tanto da questo evento. Ne approfitto per farti una domanda su una curiosità che mi è venuta. Ho visto che IAB ha lanciato un programma di certificazione per le agenzie proprio durante la Milano Digital Week. Me ne parli un secondo, mi dici di che cosa si tratta e a chi è destinato? Certo, grazie, ma è destinato un po' a tutti, alla domanda e all'offerta. Noi ci rendiamo conto che in questo momento, lo dico rapidamente, ci sarà sempre più necessità di specialisti di qualità che risolvano dei problemi concreti delle aziende sul digitale. Occorre un metro di misura certo della qualità di chi fa servizi digitali. Noi siamo super partners, non abbiamo un prodotto da vendere, un servizio da lanciare, quindi abbiamo costruito una piattaforma e una struttura interamente online dove le aziende con il nostro supporto possono accedere, fare un test e ottenere una certificazione, ovviamente se rientra in un certo tipo di standard e di parametri. In questo modo noi pensiamo di dare un valore sia a chi dà servizi, sia a chi cerca servizi, quindi le aziende che sono alla ricerca appunto di professionisti di valore. Ok, scusami, è aperto a tutte le agenzie o a dei tagli differenti, professionisti, liberi professionisti, agenzie piccole, agenzie grandi? abbiamo definito una serie, cioè, come dire, un rimborso speso, una quota da pagare per fare l'esame, sì. Però è tarata anche sulla base delle dimensioni delle aziende, ci sono dei valori molto piccoli per sì. le start-up, quindi ci sono comunque valori diversi, ma si taglia un po' per tutti, ecco. Okay. Sicuramente il bersaglio più importante sono le agenzie di piccole dimensioni e che vanno a lavorare per le piccole e medie imprese, okay. che sono quelle che hanno più bisogno di fare trasformazione digitale. Perfetto. Grazie mille allora a Sergio Amati per averci raccontato non solo della Milano Digital Week, ma anche delle nuove iniziative di IAB. Grazie per essere stato con noi, Sergio, qui a Radio Next. Grazie Pepe. E noi ovviamente ti aspettiamo fra 9 mesi, giusto il tempo per il parto della nuova Milano Digital Week di marzo dell'anno prossimo. E noi ci saremo. Va bene, grazie ancora. Grazie. Sergio. A presto, ciao, arrivederci. E ringraziamo ovviamente tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi durante questa puntata praticamente doppia di Radio Next. L'appuntamento come sempre è il lunedì con il podcast esteso oppure ogni domenica alle 13:45 con una nuova puntata di Radio Next. Un saluto da Pepe Modena.